La Brigata Visone è una brigata di solidarietà e una rete sociale costituitasi a Rho per fronteggiare collettivamente l'emergenza sociale determinata dall'epidemia da Covid-19. Più vicino. La Brigata Visone è una brigata di solidarietà e una rete sociale costituitasi a Rho per fronteggiare collettivamente l'emergenza sociale determinata dall'epidemia da Covid-19. Solidarietà. Costruiamo assieme una comunità nella quale ognuno si impegna a prendersi cura dell'altro. Mutuo soccorso. Mettiamo in comune le nostre energie per azioni di aiuto e sostegno reciproco affinché nessuno si senta solo o venga lasciato indietro. Auto-organizzazione. Partecipazione diretta e protagonismo attivo sono gli strumenti coi quali costruiamo quotidianamente la nostra rete sociale. Se il vecchio mondo è crollato sotto i colpi del coronavirus, tocca a noi costruirne uno più giusto e migliore. La Brigata Visone è una brigata di solidarietà e una rete sociale costituitasi a Rho per fronteggiare collettivamente l'emergenza sociale determinata dall'epidemia da Covid-19. Solidarietà. Mutuo soccorso. Auto-organizzazione.